Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno. Quinta puntata della versione estiva di Restiamo Animali. Giovedì 9 agosto e vi salutano dallo studio Camilla Lattanzi, Alessandra Giannini, Lorenzo Guadagnucci, Elisa Moretti, Massimo Chiari. Con quali pezzi condiamo la puntata di oggi? Abbiamo scelto due regine del rock. Iniziamo con PJ Harvey, Cat on the Wall, e proseguiamo con l'inossidabile Joan Jett, I Love Rock and Roll. È uscito il rapporto Zoomafie 2012 della LAV. Abbiamo intervistato Ciro Troiano, che è responsabile dell'osservatorio sulle zoomafie della Lega Antivivisezione. L'attuale è annuale rapporto Zoomafia, quest'anno è alla sua 13ª edizione, e ha messo in evidenza ancora una volta il pericolo principale rappresentato dalle corse clandestine di cavalli. Un fenomeno zoomafioso particolarmente preoccupante anche per i risvolti e le connessioni con la criminalità organizzata. Dal punto di vista delle operazioni di polizia sono diminuite le corse interrotte, 7 rispetto all'anno precedente, 2010, però sono aumentati i sequestri dei cavalli e le persone denunciate. Questo perché ci sono state due grosse inchieste, la prima l'operazione Febbre di Cavallo portata a termine dai carabinieri a Messina, l'altra sempre a Messina, più importante sotto il profilo criminale perché è stata sgomberata una vera e propria associazione mafiosa, da cui di associazione per delinquere di stampo mafioso, tra le altre cose finalizzata alle corse clandestine di cavalli. Siamo ritornati sul problema della zoocriminalità minorile, ovvero del coinvolgimento di bambini e minorenni in attività illegali contro gli animali. Io sono criminologo, conosco bene la portata del coinvolgimento di bambini o dell'esposizione a bambini ad atti di violenza. Un bambino o un adolescente che nutre atteggiamenti di violenza o di maltrattamento nei riguardi degli animali può sviluppare nell'età adulta atteggiamenti antisociali, quindi può avere un disturbo antisociale della personalità. Quindi abbiamo messo in evidenza questo aspetto, sottolineando alcuni casi di cronica che sono accaduti nel 2011. Un altro aspetto su cui siamo ritornati è quello delle macellazioni clandestine. La macellazione clandestina è un fenomeno strettamente collegato al furto di animali d'allevamento, il cosiddetto abbigiato. Nel nostro paese scompaiono circa 150.000 animali da allevamento ogni anno ed è chiaro che questi animali rubati vengono poi destinati alla macellazione clandestina. Questo è un aspetto sicuramente preoccupante anche sotto il profilo della sicurezza pubblica e della salute pubblica, perché si tratta di carne che entra in commercio proveniente da attività illegali e quindi non controllata. Ovviamente il nostro consiglio è quello sempre di scegliere una dieta rispettosa per tutti gli esseri viventi, quindi non cruenta. A Roma le chiamano botticelle, a Firenze si parlerebbe di fiacchere. Sono le carrozzelle trainate da cavalli usate per portare turisti a spasso per la città. Zigzagando, fra automobili, SUV, taxi, bus, pullman, motorini, biciclette e migliaia di pedoni, spesso autentiche masse umane. Per i cavalli è una tortura, sia per il peso che devono sopportare, sia per lo stress dovuto all'ambiente insano e rumoroso. Sono animali che soffrono, basta guardarli in faccia. A Roma è successo che un cavallo si sia accasciato per il troppo caldo. Ne è nato un piccolo caso. Qualcuno si è accorto di questi poveri schiavi. Il sindaco Alemanno, bontà sua, si è deciso a firmare un'ordinanza che vieta la circolazione delle botticelle quando i bollettini sanitari sulle ondate di calore raggiungono il livello 3, il più alto. È già qualcosa, diciamo una misura salvavita. Ma l'ENPA, Ente Protezione Animali, chiede giustamente di fare un passo in più, l'unico davvero sensato, l'abolizione delle botticelle. Queste carrozzelle ottocentesche in mezzo al traffico sono una finzione. Un patetico simulacro di vita urbana rilassata e a bassa velocità. Nelle città di oggi, brutalizzate dal motore a scoppio e dal turismo di massa, le botticelle, come fiacchere e fiorentini, sono solo strumenti di tortura. Un detenuto tunisino di 25 anni con problemi psichici si è impiccato il 30 luglio nel carcere di Regina Coeli. Il giorno dopo a Praga un gorilla è stato ritrovato appeso con una corda avvolta attorno al collo. Due storie di detenzione e di incuria, dato che in entrambi i casi la tragedia poteva venire evitata. Non ci piacciono le carceri, ma gli zoo hanno l'aggravante di ospitare creature del tutto innocenti. Tatu, nato il 30 maggio del 2007, è stato aiutato da Kamba, un altro gorilla, che cercava di liberare l'amico quando gli zookeepers sono arrivati sulla scena. Potrebbe essersi trattato di un tristissimo suicidio, ma anche di un tragico incidente. Le corde, infatti, vengono considerate arricchimento ambientale e vengono inserite nelle gabbie per permettere agli animali di allenarsi e muoversi, con la retorica del rispetto della loro etologia. Ma è evidente il limite di questa retorica. L'interno della stanza dove è accaduto l'incidente mortale non era fornito di telecamere, per cui non è chiaro cosa sia successo esattamente. Il direttore dello zoo, Miroslav Bobek, ha detto che la morte di Tatu è l'evento più tragico avvenuto allo zoo dopo le inondazioni dal 2002, che uccisero oltre 100 animali. Tra l'altro lo zoo ha ancora 6 gorilla, che sono gli animali più popolari tra i visitatori. Sarebbe l'ora di dichiarare fuori legge tutti gli zoo del mondo, impedendole ogni allargamento e cercando di reinserire in riserve e santuari gli ex carcerati. Giovinezza, giovinezza! Ecco una notizia che non piacerà al sindaco Renzi, che ritiene la giovinezza un valore in quanto tale. 3 giovani bracconieri sono stati colti in flagranza di reato nelle campagne di Volterra, Pisa, con un cinghiale appena abbattuto in periodo di divieto assoluto di caccia. Tra loro c'era anche un 15enne. Nei guai il fratello del minorenne, 23 anni, e un 21enne, trovati in possesso di armi, portate in modo illegale. Dopo un appostamento di oltre 3 ore, la pattuglia di polizia provinciale di Pisa li ha bloccati mentre stavano andandosene a bordo di un furgone, nel cassone del quale sono stati ritrovati, oltre al povero cinghiale senza vita, anche un fucile, un macete, munizioni e un visore notturno. La denuncia è per porto abusivo di armi ed esercizio di caccia in periodo di divieto generale. Cacciatori, brava gente, ma fateci il piacere! Caprese, per chi con un vegan è alle prese. Ingredienti: 250 g di tofu. Che sia buono però, perché altrimenti somiglia, hai presente quelle spugnette, le cuginette del mocio? Quelle per pulire il piano di lavoro. Sì, somigliano a certi tofu di bassa qualità, quindi mi raccomando, puntate alto. 3-4 pomodori maturi, sale, olio, evo, origano e basilico. Esecuzione. Tagliare a fette i pomodori. Da da da da. Rosolare le fette di tofu in padella con un paio di cucchiai di olio d'oliva e un pizzico di sale e far raffreddare. Montare la caprese. Montare? È un termine tecnico? Esattamente. Roba da grandi chef. Montare la caprese inserendo una foglia di basilico tra una fetta di tofu e quella di pomodoro. Condire con olio, sale, origano e servire. Non è finita. Inserire in un panino, offrirlo a un autogrill, tipo per esempio quello di Cantagallo, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Buon appetito! La frase di oggi è di Carl Lewis, indimenticabile campione olimpico, che ha dichiarato: «Ho scoperto che un atleta non ha bisogno di proteine animali per essere un atleta di successo. Infatti, il mio migliore anno nelle competizioni di atletica leggera è stato quando mi sono convertito al veganismo». Fotografie, ricette, contenuti, interviste, approfondimenti e i podcast di queste e di tutte le precedenti trasmissioni nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com e nella homepage di Controradio. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti: restiamoanimali@controradio.it.